Bentrovati, bentrovate. Dopo l'introduzione del biblista Divo Barsotti, alcune espressioni che ritengo importanti per quanto riguarda l'introduzione alla preghiera con il libro dei Salmi da parte del Papa Giovanni Paolo II, di cui ricordiamo le catechesi sui Salmi da lui tenute nel 2001. Giovanni Paolo II, tra le altre cose, diceva: «La nostra lettura mirerà soprattutto a far emergere il significato religioso dei Salmi, mostrando come essi, pur essendo stati scritti tanti secoli fa per dei credenti ebrei, possono essere assunti nella preghiera dei discepoli di Cristo. Ci lasceremo per questo aiutare dai risultati dell'esegesi, ma insieme ci metteremo alla scuola della tradizione». Soprattutto ci porremo in ascolto dei padri della Chiesa. Questi ultimi, infatti, con profonda penetrazione spirituale, hanno saputo discernere e additare la grande chiave di lettura dei Salmi in Cristo stesso, nella pienezza del suo mistero. I padri ne erano ben convinti. Nei Salmi si parla di Cristo. Infatti, Gesù risorto applicò a se stesso i Salmi quando disse ai discepoli: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 44. I padri aggiungono che nei salmi si parla a Cristo o è addirittura Cristo a parlare. Dicendo questo, essi non pensavano soltanto alla persona individuale di Gesù, ma al Christus totus, al Cristo totale, formato da Cristo capo e dalle sue membra. Nasce così per il cristiano, dice sempre Giovanni Paolo II, la possibilità di leggere il Salterio alla luce di tutto il mistero di Cristo. Proprio quest'ottica ne fa emergere anche la dimensione ecclesiale, che è particolarmente evidenziata dal canto corale dei Salmi. Si comprende così come i Salmi abbiano potuto essere assunti fin dai primi secoli come preghiera del popolo di Dio. Se in alcuni periodi storici emerse una tendenza a preferire altre preghiere, è stato grande merito dei monaci tenere alta nella Chiesa la fiaccola del Salterio. Uno di loro, San Romualdo, fondatore di Camaldoli, all'alba del secondo millennio cristiano giungeva a sostenere che, afferma il suo biografo Bruno di Kerfur, sono i salmi l'unica strada per fare esperienza di una preghiera veramente profonda, una via in psalmis. Questo nello scritto Passio Sanctorum Benedicti et Johannes ac Sociorum Eurundem. Con questa affermazione, dice il Papa, a prima vista eccessiva, egli in realtà restava ancorato alla migliore tradizione dei primi secoli cristiani, quando il Salterio era diventato il libro per eccellenza della preghiera ecclesiale. Fu questa la scelta vincente nei confronti delle tendenze ereticali che continuamente insidiavano l'unità di fede e di comunione. È interessante, a tal proposito, una stupenda lettera che Sant'Atanasio scrisse a Marcellino nella prima metà del IV secolo, mentre l'eresia ariana imperversava attentando alla fede nella divinità di Cristo. Di fronte agli eretici che attiravano a sé la gente anche con canti e preghiere, che ne gratificavano i sentimenti religiosi, il grande padre della Chiesa si dedicò con tutte le sue forze a insegnare il Salterio, trasmesso dalla Scrittura. Fu così che al Padre Nostro, la preghiera del Signore per antonomasia, si aggiunse la prassi, presto divenuta universale fra i battezzati, della preghiera salmodica. Grazie anche alla preghiera comunitaria dei Salmi, la coscienza cristiana ha ricordato e compreso che è impossibile rivolgersi al Padre che abita nei cieli senza un'autentica comunione di vita con i fratelli e le sorelle che abitano sulla terra. Non solo, ma inserendosi vitalmente nella tradizione orante degli ebrei, i cristiani impararono a pregare raccontando i Magnalia Dei, cioè le grandi meraviglie compiute da Dio, sia nella creazione del mondo e dell'umanità, sia nella storia di Israele e della Chiesa. Questa forma di preghiera attinta alla Scrittura non esclude certo espressioni più libere. e queste continueranno non solo a caratterizzare la preghiera personale, ma anche ad arricchire la stessa preghiera liturgica, ad esempio con inni e tropari. Il libro del Salterio rimane comunque la fonte ideale della preghiera cristiana e adesso continuerà ad ispirarsi la Chiesa nel nuovo millennio. Questo tratto dall'Osservatore Romano di giovedì 29 marzo 2001. Questa era la prima delle catechesi sui salmi di Giovanni Paolo II. Nella seconda, mercoledì successivo, 4 aprile 2001, sempre Giovanni Paolo II. Prima di intraprendere il commento dei singoli salmi e cantici delle lodi, completiamo quest'oggi la riflessione introduttiva iniziata nella scorsa catechesi e lo facciamo prendendo le mosse da un aspetto molto caro alla tradizione spirituale. Cantando i salmi, il cristiano sperimenta una sorta di sintonia fra lo spirito presente nelle scritture e lo spirito dimorante in lui per la grazia battesimale. Più che pregare con proprie parole, egli si fa eco di quei gemiti inesprimibili di cui parla San Paolo, lettera ai Romani capitolo 8 versetto 26, con i quali lo spirito del Signore spinge i credenti ad unirsi all'invocazione caratteristica di Gesù, Abba, Padre, confronta Romani 8:15 e Galati 4:6. Gli antichi monaci erano talmente sicuri di questa verità che non si preoccupavano di cantare i salmi nella propria lingua materna, bastando loro la consapevolezza di essere in qualche modo organi dello Spirito Santo. Erano convinti che la loro fede permettesse ai versetti dei salmi di sprigionare una particolare energia dello Spirito Santo. La stessa condizione si manifesta nella caratteristica utilizzazione dei salmi, che fu chiamata preghiera giaculatoria, dalla parola latina iaculum, cioè dardo, per indicare brevissime espressioni salmodiche che potevano essere lanciate quasi come punte infuocate, ad esempio contro le tentazioni. Giovanni Cassiano, uno scrittore vissuto fra il IV e il V secolo, ricorda che alcuni monaci avevano scoperto l'efficacia straordinaria del brevissimo incipit del Salmo 69. «O Dio, vieni a salvarmi! Signore, vieni presto in mio aiuto!» che da allora divenne come il portale d'ingresso della liturgia delle ore. Accanto alla presenza dello Spirito Santo, un'altra dimensione importante è quella dell'azione sacerdotale che Cristo svolge in questa preghiera, associando a sé la Chiesa, sua sposa. A tal proposito, proprio riferendosi alla liturgia delle ore, il Concilio Vaticano II insegna: «Il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza, Cristo Gesù, unisce a sé tutta la comunità degli uomini e se l'associa nell'elevare questo divino canto di lode. Infatti Cristo continua questo ufficio sacerdotale per mezzo della sua stessa Chiesa, che loda il Signore incessantemente e intercede per la salvezza del mondo intero, non solo con la celebrazione dell'Eucaristia, ma anche in altri modi, specialmente con la recita dell'ufficio divino». È la Sacrosanctum Concilium numero 83. Anche la liturgia delle ore, dunque, continua Papa Giovanni Paolo II, ha il carattere di preghiera pubblica, nella quale la Chiesa è particolarmente coinvolta. È illuminante allora riscoprire come la Chiesa abbia progressivamente definito questo suo specifico impegno di preghiera scandita nelle varie fasi del giorno. Occorre per questo risalire ai primi tempi della comunità apostolica, quando ancora vigeva uno stretto legame fra la preghiera cristiana e le cosiddette preghiere legali, prescritte cioè dalla legge mosaica, che si svolgevano in determinate ore del giorno nel Tempio di Gerusalemme. Dal Libro degli Atti sappiamo che gli Apostoli tutti insieme frequentavano il Tempio, capitolo 2, versetto 46, oppure che salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, capitolo 3, versetto 1, e d'altra parte sappiamo anche che le preghiere legali per eccellenza erano appunto quelle del mattino e della sera. Gradualmente i discepoli di Gesù individuarono alcuni salmi particolarmente appropriati a determinati momenti della giornata, della settimana o dell'anno, cogliendovi un senso profondo in rapporto al mistero cristiano. È autorevole testimone di questo processo San Cipriano, che così scrive nella prima metà del III secolo: Bisogna infatti pregare all'inizio del giorno per celebrare nella preghiera del mattino la risurrezione del Signore. Ciò corrisponde a quello che una volta lo Spirito Santo indicava nei Salmi con queste parole: Tu sei il mio Re, il mio Signore, ed io innalzerò a te, o Signore, di mattino la preghiera. Ascolterai la mia supplica, di mattino mi presenterò a te e ti contemplerò. Salmo 5, versetti 3 e 4. Quando poi il sole tramonta e viene meno il giorno, bisogna mettersi di nuovo a pregare. Infatti, poiché Cristo è il vero sole e il vero giorno, nel momento in cui il sole e il giorno nel mondo vengono meno, chiedendo attraverso la preghiera che sopra di noi ritorni la luce, invochiamo che Cristo ritorni a portarci la grazia della luce eterna. Questo nello scritto De Orazione Dominica, al capitolo 35. La tradizione cristiana, continua il Papa, non si limitò a perpetuare quella ebraica, ma innovò alcune cose che finirono col caratterizzare diversamente l'intera esperienza di preghiera vissuta dai discepoli di Gesù. Oltre infatti a recitare al mattino e alla sera il Padre nostro, i cristiani scelsero con libertà i salmi con i quali celebrare la loro preghiera quotidiana. Lungo la storia, questo processo suggerì l'utilizzazione di determinati salmi per alcuni momenti di fede particolarmente significativi. Fra questi teneva il primo posto la preghiera vigilare che preparava al giorno del Signore, la domenica, in cui si celebrava la Pasqua di risurrezione. Una caratteristica tipicamente cristiana è stata poi l'aggiunta alla fine di ogni salmo e cantico della dossologia trinitaria, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Così ogni salmo e cantico viene illuminato dalla pienezza di Dio. La preghiera cristiana, conclude il Papa, nasce, si nutre e si sviluppa intorno all'evento per eccellenza della fede, il mistero pasquale di Cristo. Così, al mattino e alla sera, al sorgere e al tramonto del sole, si ricordava la Pasqua, il passaggio del Signore dalla morte alla vita. Il simbolo di Cristo, luce del mondo, appare nella lampada durante la preghiera del Vespro, chiamata per questo anche lucernario. Le ore del giorno richiamano a loro volta il racconto della passione del Signore e l'ora terza anche la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste. La preghiera della notte, infine, ha carattere escatologico, evocando la veglia raccomandata da Gesù nell'attesa del suo ritorno. Confronta Marco, capitolo 13, versetti 35 a 37. Cadenzando in questo modo la loro preghiera, i cristiani risposero al comando del Signore di pregare incessantemente. Luca 18, 1, 21, 36, oppure Prima Tessalonicesi 5, 17, oppure Efesini 6, 18, ma senza dimenticare che tutta la vita deve in qualche modo diventare preghiera. Scrive a tal proposito Origene: prega senza posa colui che unisce la preghiera alle opere e le opere alla preghiera. Questo nello scritto sulla preghiera, al capitolo 12, paragrafo 2. Questo orizzonte nel suo insieme costituisce l'habitat naturale della recita dei salmi. Se essi vengono sentiti e vissuti così, la dossologia trinitaria che corona ogni salmo diventa per ciascun credente in Cristo un continuo rituffarsi sull'onda dello Spirito e in comunione con l'intero popolo di Dio nell'oceano di vita e di pace in cui è stato immerso col battesimo, ossia nel mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.